seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà. Fra milioni di persone lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché dubbino no, perché dubbino no. Ma nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Riesci ad essere sempre come sei, come sei. Forse seguirò il mio cuore, o forse l'ho seguito già. In amore non c'è ragione, perché dubbino na, perché dubbino na. Mai nessuno mi ha mai detto sono pazza di te. Mai, mai nessuna è grande come te, che mette i tuoi sogni dentro ai miei e riesce ad essere sempre come sei, come sei, come sei. Yeah.